A bordo campo di Dario Ricci. Tutto di traverso, la moto di Loris Capirossi. Capirossi, Rossi ancora tutto in spazzolata e poi Gibernau, Ceca e Nakano. Non ci sono chance, là davanti ci sono Loris Capirossi e Valentino Rossi. Buongiorno. Salve, buongiorno Loris. Per fortuna, scherziamoci un po' sopra, per fortuna che è tornato Gibernau, altrimenti quest'anno saresti il nonno del moto mondiale. Insomma. Ma lo sono stato per un anno, l'anno scorso sono stato io il nonno del moto mondiale, ma con il ritorno di Gibernau alle corse mi ha battuto. Lui è un anno più vecchio, quindi sarà lui, prenderà lui lo scettro del nonno. Senti, confessacelo, non è che sotto banco gli hai offerto qualcosa per tornare lui? Come si vive da nonno sulle due ruote? No, assolutamente. Io penso che ho sicuramente raccolto tanto, continuo a raccogliere soddisfazioni. Io penso che è un mondo perfetto, un mondo di cui io ho avuto molto, senza dubbio. Gibernau è stato lontano dalle gare 2 anni, poi ha avuto la possibilità, facendo un po' di collaudi per la Ducati, di tornare. Lui ha assolutamente accettato al volo, perché rimanere lontani da questo mondo non è facile. Lo immagino, si vede anche dalla grande passione che ancora oggi metti in tutte le gare. Senti, tu con i tuoi 35 anni poi siete Gibernau a portare la bandiera dei Venchietti e poi Jonas Folger, 15 anni compiuti ad agosto, il più giovane del moto mondiale 125 nel 2009, e poi dietro di lui la matricola Lorenzo Savadori che compie 16 anni 8 giorni prima del Gran Premio che darà il via al moto mondiale, in quel 4 aprile in cui proprio tu ne farai 36. Insomma, si scontrano sempre due generazioni nel moto mondiale, quest'anno con una grande novità voluta fortissimamente anche da te, il limite d'età dei 16 anni. Raccontaci come si è arrivata a questa decisione, cioè non si potrà correre nel moto mondiale con un'età inferiore ai 16 anni. Beh, effettivamente, guarda, io faccio parte della Safety Commission, abbiamo parlato a lungo per cercare di trovare una soluzione sicuramente adeguata a tutti. Il problema, secondo me, è che si avvicinavano al mondiale ragazzi sempre più giovani e purtroppo magari anche tanti talenti venivano bruciati nel giro di un anno, che purtroppo se i risultati non ci sono perdi il posto, e quindi magari non ero neanche maturi per affrontare questo passo comunque molto grande. E col cambiamento e portare all'età di 16 anni penso che qualcosa si potrà vedere, e soprattutto si potranno vedere ragazzini che arrivano a 16 anni con qualche anno comunque di esperienza alle spalle, che non fa mai male. Tra l'altro, Loris, una decisione che arriva anche a partire da quella che è la tua esperienza diretta, perché oggi sei il capo classifica, insomma, abbiamo detto, tra i piloti più esperti del moto mondiale, ma nel 1990 in 125 a 17 anni e 165 giorni sei stato anche il più giovane campione del mondo di sempre. Ecco, immagino che quell'annata non si potrà mai cancellare dalla memoria, ma ricordi anche le difficoltà di salire sul gradino più alto del campionato del mondo a quell'età? No, è stato fantastico, è indimenticabile senza dubbio, perché sono ricordi che rimarranno sempre. Io sono arrivato alla mia prima stagione, ho portato a casa il titolo mondiale, però tornando al discorso di prima, io comunque l'ho vinto a 17 anni, però avevo fatto 2 anni di campionato italiano, un anno di campionato europeo, sono arrivato comunque al mondiale con un po' di esperienza in più e questa comunque mi è servita. Però certamente battere il mio record non sarà facile. E senti, secondo te che cosa spinge le grandi case automobilistiche, soprattutto i grandi team, a cercare talenti sempre più precoci? Ma il fatto di riuscire ad accaparrarsi magari un talento in giovane età che magari può crescere, però purtroppo non, nessuno lascia lo spazio e il tempo per farli crescere, questi ragazzi magari anche talentuosi, e quindi se ne perdono per la strada tantissimi. A partire da quella che è stata la tua esperienza, Loris, ci sono degli episodi, diciamo, negativi che tu da giovanissimo pilota hai vissuto e che in qualche modo ti hanno guidato anche su questa strada? Ci sono dei momenti che in qualche modo ti hanno fatto capire che era meglio introdurre questo limite? Ma no, ma mi è capitato durante questa stagione di passare purtroppo un po' troppo tempo nella clinica mobile per i vari infortuni che ho avuto, e ho visto ragazzini veramente in fasce. Questo trofeo KTM Red Bull, che con dei ragazzini di 13 anni, 14 anni, e sono troppo piccoli, sono ancora bambini, bisogna che da bambini bisogna giocare, poi quando si è diciamo consapevoli al 100% è giusto anche con remoto, però bisogna stare attenti. Tra l'altro c'è anche credo un problema fisico, no? Nel senso che velocità, peso, caratteristiche delle moto non rendono questi puledri, chiamiamolo così, guidabili facilmente da tutti, e immagino in particolare da chi sta ancora mettendo su muscoli e chili importantissimi per la sua crescita. No, ma guarda, secondo me quello non è il problema, perché anch'io ho cominciato andare in moto che avevo solo 4 anni e secondo me il problema è metterli in un campionato del mondo dove si respira un'aria comunque difficile, mettergli tanta pressione sulle spalle, e quindi questo secondo me è il problema principale, non il fatto che abbiano 15 o 16 anni, bisogna che comunque abbiano fatto un po' di esperienza prima per poi arrivare in moto mondiale. Come piloti state studiando anche delle forme di supporto, diciamo così, psicologico, proprio per questi aspetti che stai sottolineando? Ma più che bisogna lasciare comunque a tutti il tempo di crescere. Non si nasce campioni, campioni si diventa con la forza di volontà, con l'impegno, e quindi bisogna capire che questo sport comunque non è un gioco. Bisogna cominciare come gioco, poi bisogna impegnarsi. Un'altra misura importante in questo senso, dettata anche dalla crisi di cui fra poco parleremo, è anche il fatto che è stato deciso che gli esordienti in MotoGP dovranno andare solamente nei team satellite, no? È un modo per far nei team privati, insomma, è un modo per far sopravvivere questi team, ma forse anche un modo per garantire appunto a chi fa il suo esordio nella classe regina di acquisire la giusta esperienza. Ma è sempre stato così, ma adesso sono un paio d'anni che c'è la pazzia, che i piloti pretendono ingaggi stratosferici, che pretendono sponsor importanti, pretendono una moto ufficiale al primo anno. Bisogna che abbassino un po' la testa tutti questi ragazzini. Io quando ho cominciato a correre nel mondiale, quando ho vinto il mio primo mondiale, avevo una moto privata. Il primo anno di 250, con due titoli alle spalle, avevo una moto privata. Quindi se torniamo un attimo indietro non fa male a nessuno. Senti, ti chiedo ancora, in questo contesto, quando vedi sul giornale le foto del fratellino di Valentino Rossi che sta ancora divertendosi con le sue mini moto e che già viene tempestato da fotografi, intervistatori e da tutto il circus mediatico, cosa provi? Sei preoccupato anche da papà? Guarda, sinceramente non parliamo volgarmente, però è solo perché è fratello di Valentino. Io penso che di Valentino Rossi non ce ne siano tantissimi in giro, e il fatto di essere magari il fratello viene prestato un po' di più, però quello, io torniamo sempre sul discorso, bisogna che i ragazzi si divertano e poi dopo quello che vedrà, che verrà, si vedrà. Tu tra l'altro, se non sbaglio, sei direttamente impegnato a contatto con molti giovani con la tua scuola di guida sicura, vero? Sì, purtroppo adesso non stiamo più andando avanti con la scuola per problemi, come ne parlavamo prima, un po' di cose gestionali del tutto, però devo dire che ci sono tanti ragazzi giovani che si sono avvicinati comunque alle moto. Senti, credi che questa crisi economica che sta avendo un grosso impatto sul moto mondiale, il caso Kawasaki, possa essere in qualche modo però anche salutare per ridimensionare alcuni eccessi del circus del moto mondiale? Beh, è difficile da dire, è difficile, effettivamente i costi sono molto alti, perché comunque stiamo parlando di moto prototipi, moto costruite solo per fare quello, quindi è ovvio che i costi siano altissimi, soprattutto quando case a livello di Kawasaki non riescono a raccogliere comunque i risultati, effettivamente la crisi che c'è. Senti, Felipe Massa in Formula 1 ha detto va bene tagliare i costi, ma non tagliamo gli ingaggi dei piloti. Da questo punto di vista tu saresti disponibile ad un eventuale sacrificio in questo senso, e credi che altri tuoi colleghi potrebbero venire incontro ai team in questo... Per aiutare chi? Per aiutare le case e i team. Il problema è quando ci sono dei grossi sponsor che pagano, i soldi comunque qualcuno se li mette in tasca, quindi è meglio che se li mettano in tasca i piloti, che sono quelli che rischiano in prima persona. Assolutamente. Insomma, difficile darti torto. Senti Loris, ti chiedo ancora che stagione ci dobbiamo aspettare per la sfida al vertice, al trono di Valentino? Io penso che sarà una stagione combattuta. Avrò a disposizione la Moto 2009, un prototipo, e spero veramente che sia competitiva. L'anno scorso abbiamo sofferto molto, però io ci credo molto, sto cercando di prepararmi al meglio per riuscire a fare un'ottima stagione, e io ci spero. La grinta sicuramente non è mai mancata, speriamo ci sia anche la moto quest'anno. Speriamo davvero. Allora senti, ti ringrazio molto per la tua disponibilità e ti seguiamo con affetto. Un abbraccio a tutti, grazie mille. Un grande abbraccio, a presto. Ciao. Sempre simpatico, Loris Capirossi. A bordo campo. Sì, buonasera a voi, ci troviamo ancora all'interno dello stadio Angelo Massimino di Catania, dove ci sono ancora i tifosi che hanno seguito il Palermo in questa trasferta, tenuti a bada, guardati a vista più che altro dalla polizia, sono ancora all'interno dello stadio. Fuori i rumori degli elicotteri, delle ambulanze. Persone che lanciano pietre contro agenti di polizia, insomma. Qui arriva un'altra agenzia che purtroppo conferma l'ufficialità di quello che stavamo dicendo poc'anzi, c'è anche il nome e cognome dell'agente di polizia che purtroppo è deceduto, la vittima era l'ispettore capo Filippo Raciti, aveva soltanto 38 anni. Con Rashid Berradi parliamo di calcio, strano perché Rashid è grande atleta, grande campione della nostra atletica leggera, olimpionico, ha partecipato ai Giochi Olimpici di Sydney del 2000, è stato primatista italiano di mezza maratona, nato in Marocco, nella splendida città imperiale di Meknesh, ma italiano ormai a tutti gli effetti, vero Rashid? Sì, palermitano d'adozione, ho rappresentato l'Italia alla finale olimpica a Sydney e attualmente ho il record italiano, la mia prestazione italiana sulla mezza maratona. Impegno significativo sulle piste d'atletica, ma come dicevi, il fatto di essere palermitano d'adozione ti fa guardare anche con particolare attenzione anche ai risultati dei rosanero in campo, no? E parliamo di calcio in questo caso. Sì, ho seguito tutta il percorso del Palermo, della Serie B. All'Serie A ho sempre tifato per i colori rosanero, anche se ho anche una certa simpatia per l'Inter, però insomma avendo una grande squadra in casa, nella mia città, insomma cerco di stare e tifare al 100% rosanero. Palermo e Catania, no? Sono i due grandi poli del calcio siciliano. Catania-Palermo è dal 2 febbraio del 2007 qualcosa di diverso, di più di un semplice derby calcistico. Era quella sera, quella del 2 febbraio del 2007, quando proprio durante gli scontri, terribili incidenti che si verificarono prima, durante e dopo il derby siciliano, era in quella sera, dicevamo, che venne ucciso l'ispettore di polizia Filippo Raciti. Tu, Rashid, te lo ricordi quel derby? Cosa stai facendo? Me lo ricordo e soprattutto mi ricordo la mia incredulità davanti a questa terribile notizia. E veramente mi sono rimasto fermo davanti a questa notizia, perché ho detto non è possibile che comunque una persona, un agente di polizia di Stato, possa perdere la propria vita per un evento sportivo. Io penso che un agente di polizia mette in conto il fatto che rischia la vita facendo il proprio lavoro, ma che possa pensare di perdere la vita in un evento sportivo, secondo me è una cosa inaccettabile. E quindi fin dall'inizio ho detto non potevamo rimanere fermo, perché lo sport è tutto altro, lo sport è unione, lo sport è festa, lo sport è aggregazione, quindi è spettacolo, e quindi non riuscivo e non riesco a tuttora, perché insomma nonostante che siano passati 2 anni non riesco ancora a tuttora a capire come si possa veramente arrivare a scontrarti per un evento sportivo. Lo sport deve tanto a questa tragedia, e soprattutto deve fare tanto per ricordarlo ogni anno e ogni giorno. Questi valori che hai ricordato li conosci da vicino, non solo per aver toccato con mano quello che è l'Olimpiadi, ma anche perché ancora oggi, tutt'oggi sei impegnato sul campo nell'attività di una società di atletica leggera, particolarmente sì, impegnata proprio con i ragazzi, con i giovanissimi. Sì, ho fondato una scuola che si chiama Scuola Atletica Berradi 091, soprattutto per raccontare la mia esperienza sia da atleta che da l'esperienza olimpica, lo stile di vita che si possa condurre attraverso lo sport ai giovani nelle scuole di Palermo, ma soprattutto sto cercando di partire a portare lo sport nei quartieri, perché parto da un detto arabo occidentale, che è quello: se Maometto non va dalla montagna, è la montagna che deve andare da Maometto. Allora, siccome ho capito che nessuno ha intenzione, i giovani non si avvicinano più al mondo dello sport, e quindi di conseguenza ho detto: è lo sport che deve andare dai giovani. E quindi da questo detto veramente sto iniziando a crearmi delle realtà a Palermo, quindi di recuperare alcuni zone o comunque alcune aree disagiate dove si possa praticare l'attività sportiva con i ragazzi del quartiere. E già da questo punto, da questa esperienza, già ho trovato due o tre ragazzi dello Zen, che ormai adesso uno viene chiamato proprio la scheggia dello Zen, perché fa velocità a buon livello, quindi sono contento perché è un punto di partenza. Tu che vivi in queste strade, in queste città, in questi vicoli, sei a contatto con i ragazzi di Palermo, di Catania, ma di Filippo Raciti si parla ancora? Ne parlano loro? A dire la verità, no, perché io speravo che questa maratona, questi 270 chilometri, sinceramente ci fosse anche la partecipazione da parte dei tifosi. Io volevo coinvolgere tutti quanti, anche perché il mio obiettivo era quello veramente di far attraversare questa fiaccola lungo tutta l'entroterra siciliana. Mi sembra proprio che tu, a partire dalla tua esperienza di atleta, hai scelto di utilizzare proprio l'atletica leggera, quella che è la corsa più bella e importante, la maratona, per ricordare Filippo Raciti. Una maratona da Catania a Palermo in occasione dell'ultimo derby, vinto poi dal Catania per 4-0, ma in questo caso il risultato non contava nulla, non era quello la cosa importante, l'importante era far passare questa staffetta di mano in mano per 270 chilometri nel segno di Filippo Raciti. Ecco, com'è nata questa iniziativa, Rashid? L'iniziativa nasce, ripeto, proprio davanti, quando sono rimasto colpito dalla notizia, ho detto insomma dobbiamo fare qualcosa, e quindi siccome l'atletica rimane la regina dello sport, allora la regina dello sport come doveva fare qualcosa, quindi ho detto la distanza per eccellenza della maratona, quindi ho pensato di fare questa maratona da Catania a Palermo, ma soprattutto per unire simbolicamente le due città, quindi unirle attraverso una fiaccola, la fiaccola che è il massimo simbolo dello sport, ma soprattutto è il simbolo della pace. Ho pensato di fare questa maratona che sia di buon auspicio per la pace fra le due tifoserie, ma soprattutto che ci sia la pace fra tutti i tifosi del calcio, perché io veramente non rimango sempre incredulo e non riesco a capire come un tifoso possa scontrarsi con un altro tifoso tralasciando la propria squadra, perché lì poi non si va a tifare la squadra, ma soprattutto si cerca lo scontro con gli altri tifosi. Quindi lo sport deve continuare ed essere un mezzo di unione e non ci deve dividere mai. Questo è il vero valore dello sport. Che reazione avete trovato nei paesi, nelle città, per le strade della Sicilia che stavate attraversando con questa fiaccola in mano nel nome di Filippo Raciti? Sì, noi siamo partiti da largo Filippo Raciti alle 9:30, dalla fiaccola che è stata accesa direttamente dai genitori di Filippo, e poi siamo passati, dopo 2 chilometri, siamo passati presso il 10° reparto mobile di Catania, dove Filippo prestava servizio. Lì abbiamo acceso un braciere che è rimasto acceso per tutta la durata della manifestazione ed è stato spento soltanto una volta finita la partita. E poi niente, abbiamo iniziato tutto il percorso in provincia di Catania, dove abbiamo avuto tanta accoglienza, ma soprattutto siamo riusciti a coinvolgere le scuole, i giovani. E poi a 1 di notte c'è stato il passaggio fra le due province, fra Catania e Palermo, a Ganci, e da lì abbiamo corso tutta la notte. È stata un'emozione continua, perché vedere questa fiaccola di notte sulle Madonie è veramente stata una grande emozione. E siamo arrivati esattamente a Palermo poco prima dell'inizio della partita, dove l'ultimo chilometro l'ha portata Salvatore Antibo. Per me era importante che la portasse lui, perché lui è stato il massimo rappresentante dello sport siciliano e italiano, e quindi dopo 30 ore abbiamo concluso la nostra fatica, ma soprattutto abbiamo ricordato chilometro per chilometro, metro per metro, Filippo Raciti. So che ci sono delle parole che il papà di Filippo ti ha detto, e c'è stato anche un gesto che credo ti rimanga ancora nel cuore. Quando il papà di Filippo ha acceso la fiaccola a Catania poco prima della nostra partenza, insomma poi ci ha detto che, mi ha detto personalmente, dice l'accendino se l'è tenuto, mi dice mi tengo l'accendino per ricordo. Questa frase me la sono portata veramente da Catania a Palermo, ma me la porto per tutto il resto della vita, perché in quell'accendino per lui rappresentava veramente tanto, rappresentava ricordare il figlio, ma rappresentava un'iniziativa semplice ma allo stesso tempo bella. E poi al campo, insomma, quando sono arrivato a Palermo mi ha detto, insomma, di continuare con questa iniziativa, a ripeterla negli anni, veramente per non farsi che si dimentichi il nome di Filippo. E poi c'è stata la partita vista fianco a fianco palermitani e catanesi in tribuna, vero? Sì, è un'altra grande soddisfazione, perché comunque nel nostro piccolo, molto ristretto, siamo riusciti a vedere la partita insieme, quindi gli atleti, i podisti palermitani li abbiamo visti ad altri 15 podisti catanesi ed eravamo insieme. C'è un piccolo particolare, insomma, che mi piace ricordarlo, che comunque quando il Catania segnava in continuazione, tra l'altro, l'unica cosa c'era semplicemente uno scambio di sguardi e non di più, perché qualsiasi gesto di esultazione avremmo peggiorato le cose. Quindi, però, ripeto, nel piccolo si può fare, quindi noi l'abbiamo vista insieme ai catanesi, i palermitani insieme ai catanesi. Quindi se si può allargare a tutto lo stadio, può essere soltanto un giorno di festa, per ricordare anche Filippo in questo caso. E poi, insomma, quando Mascara fa quel gol da 50 metri, tutti ad applaudire, catanesi e palermitani. Sì, è stato un gesto veramente spettacolare. Immediatamente dopo veramente ci sono stati l'applauso di tutto lo stadio, quindi anche questa è stata una bella cosa. Ecco, dopo la partita, devo dire, tanto entusiasmo da parte catanese, contestazioni da parte palermitana, però non ho sentito alcuni dei protagonisti ricordare Filippo. Segno forse che nel mondo del calcio c'è il rischio di una rimozione di questo episodio, si potrebbe far di più. Tu che calciatore non sei, ma che uomo di sport invece sei, e come vedi questo tema? Io ho visto tanta distanza da questa notizia, ma la cosa che mi preme dire è quella che l'anno prossimo vorrei veramente riuscire a coinvolgere le due tifoserie, anche perché il messaggio che vorrei lanciare è quello del fatto che noi dobbiamo vivere lo spirito che vivono gli abitanti di un'isola, quindi anche noi siamo un'isola, quindi dovremmo essere uniti e combattere sull'unico ideale, che è quello dello sport. Rashid Berradi, allora scarpette ai piedi, maglietta canottiera e per le strade siciliane nel 2010, sempre per ricordare Filippo Raciti. Grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito www.radio24.it e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.